Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera, care ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi ci sono io, domani tornerà Sebastiano Barisoni. La giornata economico-finanziaria di oggi vede innanzitutto, e partiamo dalle buone notizie, un bel rimbalzo, per il momento così viene definito, in borsa, e alla faccia del rimbalzo, perché il FTSE MIB guadagna il 2,93% e il FTSE All Share il 2,74%, quindi le cose vanno molto bene. Un mercato trainato soprattutto in questo momento dalle popolari: UbiBanca guadagna il 6,87%, la Popolare Emilia Romagna il 6,41%, la Popolare di Milano il 6,09%, il Banco Popolare il 5,49%. Sul FTSE MIB non c'è un titolo negativo, il peggiore è IUX che guadagna lo 0,16%. Questo il quadro dai mercati al momento, e naturalmente ci torneremo e approfondiremo questo, così come approfondiremo il caso di Telecom Italia, guadagna l'1,01%, ma non è questo il punto. Il punto è che oggi si svolge l'assemblea con una battaglia per quanto riguarda la governance, ossia il governo della società, che però a dire la verità è abbastanza scontata, nel senso che il presidente dovrebbe essere Recchi, amministratore delegato dovrebbe essere confermato Patuano. Ci sono dei dubbi sull'ingresso di Vito Gamberale all'interno del consiglio di amministrazione. Di questo torneremo a parlare più avanti, naturalmente dopo i mercati. Apriremo però parlando di quello che sta succedendo a Roma. E che cosa succede? Succede che si sta valutando il bilancio di previsione 2014, poi dite voi, e lo dico anch'io perché rimane questa perplessità, che ci si trovi ad aprile a valutare il bilancio previsionale 2014 è abbastanza assurdo, andatelo a dire ad un'azienda. E però succede questo: si sta valutando il bilancio di previsione 2014 e sono uscite delle voci secondo le quali si sarebbe verificato che mancano altri 60 milioni di euro rispetto al budget inizialmente preventivato. È successo che si è dimessa l'assessore al bilancio Daniela Morgante proprio poco fa, l'interim lo ha assunto Ignazio Marino. Fatto sta che il buco nei conti di Roma c'è ed è grosso. Dice Marino: non esiste alcun nuovo buco o errore nei calcoli, chiarisce, e però dice anche il testo che sta circolando è un testo non definitivo, oggetto di ulteriori modifiche e approfondimenti. Probabilmente per i romani sono in arrivo nuove tasse e sicuramente sacrifici per il bilancio, insomma una spending review in questo caso per quanto riguarda il Comune di Roma piuttosto dura. Sarà questo il nostro tema di apertura. Parleremo di lavoro perché incontreremo Marina Calderone, che è presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, e le faremo dare delle valutazioni per quanto riguarda tanto il decreto lavoro quanto il Jobs Act, ma che è anche neo consigliere di Finmeccanica, e con lei naturalmente tratteremo anche di questo. Infine ci occuperemo di una notizia che insomma sulle prime pagine di tutti i giornali in queste ore, che è la questione dell'Ucraina. L'affronteremo anche qua, come sempre, dal nostro punto di vista, quindi dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista energetico, insomma, no? Perché di là, lo sappiamo, passano i gasdotti, il gas russo deve arrivare da noi. Vogliamo anche cercare di capire se questo incremento di tensione tra l'Unione Europea e la Russia, che tipo di danni ci può portare, senza contare che un altro grande nostro fornitore, che è l'Algeria, va al voto venerdì. Insomma, non ci sono grandissime incognite, però se queste incognite si verificassero i problemi potrebbero essere anche un po' più grandi. 349-238-6666 per i vostri SMS, le notizie in breve di oggi. Get vedete, se posso spiegare una volta per tutte perché il Movimento 5 Stelle fa ostruzionismo. Allora, innanzitutto questa non è la sede, insomma, non è Focus Economia, non lo è nemmeno Effetto Giorno, che è una trasmissione di informazione. Rivolgetevi da altre parti, sono anche le fonti internet sulle quali cercare. Allora, iniziamo come sempre dall'oro. Oro in lieve rialzo a 1302 dollari l'oncia. Il petrolio, il WTI con consegna a maggio a 104,16 dollari al barile, in rialzo dello 0,4%. Per quanto riguarda il Brent invece, siamo con consegna giugno, un più 0,57%, 109,98 dollari al barile. Ci sono ulteriori cattivi segnali dalla Cina, dove la crescita rallenta. Nel primo trimestre dell'anno è stata del 7,4%, il ribasso rispetto al 7,7% dell'ultimo trimestre dell'anno scorso. Naturalmente, cioè, qualcuno le dice sempre, questo è un segnale di preoccupazione per un'economia come quella cinese. È un segnale di preoccupazione perché i ritmi di crescita devono essere più alti perché l'economia si sostenga sostanzialmente. Mentre invece, visto che poi parleremo dell'Ucraina, la Russia, il prodotto interno lordo russo è diminuito dello 0,5% nel primo trimestre del 2014 rispetto al trimestre precedente, segnali non buoni. Mentre, e questa è cronaca, l'avete sentita anche nel GR, sta proseguendo l'offensiva di Kiev contro i filorussi. Ci arriveremo più avanti. Ci sono le cose che riguardano l'Eurozona. Innanzitutto le notizie che arrivano da Parigi. Questa è quasi una dichiarazione di rito, se volete la sentite da tutti i governi che hanno difficoltà di bilancio all'interno dell'Unione Europea, all'interno dell'area euro. La Francia manterrà gli impegni con l'Unione Europea, che sono alla base della credibilità, della fiducia e della sovranità della Francia. Parole del premier francese Manuel Valls. Questo dopo che Bruxelles ha respinto la richiesta di Parigi di ottenere un'ulteriore deroga per il rientro del deficit sotto al 3%. Dice Valls, non è l'Europa che ci impone queste scelte, ma è che non possiamo vivere al di sopra dei nostri mezzi. Vanno bene le cose per quanto riguarda i titoli di Stato italiani. Lo spread tra BTP e Bund è poco variato, sui 161 punti base. Il rendimento del decennale italiano scende sotto il 3,10% per la prima volta dall'ingresso dell'euro e ritocca il minimo storico. Siamo al 3,095%. A proposito invece dei nostri rapporti con Bruxelles, la Commissione europea fa sapere che non ha ricevuto alcuna lettera dal governo italiano, quella nella quale il governo comunica lo slittamento del pareggio di bilancio. Mentre il DEF, nel frattempo, il documento di economia e finanza, ha ricevuto il via libera dalla Commissione bilancio della Camera, senza condizioni né osservazioni. Poi c'è una notizia che, se fosse confermata, fatemelo dire, insomma, non indulgo nei commenti di solito, però sarebbe pazzesca, perché si starebbe progettando di far pagare il canone Rai in base al contatore dell'elettricità e non più legandolo al televisore. Queste alcune indiscrezioni di stampa che stanno circolando in queste ore. Il problema è il recupero dell'evasione del canone RAI, da inserire nel decreto che contiene la riduzione dell'IRPEF. L'introito eventualmente recuperato sarebbe stimato intorno ai 300 milioni di euro, andrebbe per metà al tesoro e per metà alla RAI. L'impianto prevederebbe dunque che ad un allacciamento elettrico, quindi ad ogni contatore, tenete presente, sono solo indiscrezioni, a me sembra talmente assurda che, insomma, una cosa di questo genere non può passare, ad ogni contatore si faccia corrispondere il pagamento di un canone. Secondo indiscrezioni, sarebbe la soluzione caldeggiata dal commissario alla Spending Review, Carlo Cottarelli, e da Viale Mazzini, ma in alternativa si pensa di legarlo al nucleo familiare. Chissà come poi. Quindi hai l'elettricità, hai il televisore, questa sarebbe l'equazione, e quindi paghi il canone. A proposito di Cottarelli, a proposito di Cottarelli, oggi c'è stato il direttore generale dell'ENIT che è intervenuto a Mix 24, ospite di Giovanni Minoli. Cottarelli, Andrea Babbi si chiama. Cottarelli ci vuole chiudere? Lo invito a conoscere bene ENIT, ascoltiamolo. Su un fatturato di 28 milioni di euro, 13 sono per gli stipendi, quindi una cifra molto diversa, anche questa qui è correttezza. Le sedi all'estero sono 23 e sono a disposizione 23. Di tutte le regioni e soprattutto di Expo. Sì, La grande rivoluzione, in un anno abbiamo tentato di riprendere un dialogo con le regioni, perché prima questo dialogo non c'era, anche oggi noi ci vediamo con le regioni, abbiamo lanciato una campagna Made in Italy a disposizione delle regioni, una campagna cornice che sta avendo buon successo. Cottarelli però sembra aver alzato la mannaia su di voi, mi sembra che bisogna dargli qualche buona ragione per non abbassarla questa mannaia. Mi dice una ragione precisa per cui Cottarelli vi dovrebbe lasciare in pace? Una buona ragione è che questa funzione della promozione di un paese nel mondo ha comunque da esserci, che si chiami sicuramente, o che si chiami agenzia, certo, o che si chiami ministero, ha da esserci. Le il tema è anche auguri di conoscere le cose. Sì, Cottarelli lo invito a conoscere le cose, così come tutti quanti. Va bene. Nell'ENIT ci sono dei professionisti veri del turismo, vanno valorizzati, vanno conosciuti, vanno messi in grado di lavorare e di lavorare con le regioni. Ha ragione chi ci scrive al 349-238-6666 che dell'ipotesi di legare il contatore dell'energia elettrica al pagamento del canone RAI è tempo che si parla. Il primo che ne parlò era il all'epoca vice ministro dello sviluppo economico Paolo Romani e aveva proposto: se uno non ha il televisore si fa un'autocertificazione per comunicare di non possedere la TV. Vedremo come andrà a finire. Ci sono i dati oggi diffusi dalla FIEG, la Federazione degli Editori di Giornali. Non si ferma la crisi, dopo il tonfo del 2012, anche nel 2013 i ricavi di quotidiani e periodici hanno registrato cali a due cifre a fronte di una discesa dei costi contenuta. Nel 2013 il fatturato del settore dei quotidiani è sceso del 19,4%, la caduta dei ricavi editoriali è dell'11,1%, solo in parte attenuata dalla maggiore tenuta dei ricavi di vendita. Fatturato giù del 12,7% nel 2013 e ricavi pubblicitari diminuiti del 60% dal 2006 al 2013. Parleremo più avanti anche delle nomine nei vertici delle aziende quotate, ne parleremo tra l'altro con una donna che è stata appena nominata nel CDA di Finmeccanica. Ne ha parlato anche Giorgio Squinzi, il presidente di Confindustria. Sentiamolo al microfono di Daniele Scopigno. Sono tante nomine che per l'imbarco della competenza vanno nella direzione giusta e poi i giudizi si formeranno dopo che avremo potuto constatare l'azione dei nuovi nominati. Così Squinzi anche su Moretti e Marcegaglia. DJ Moretti è una persona di grandi capacità manageriali, pensate allo straordinario lavoro che ha fatto le Ferrovie dello Stato, e quindi sono convinto che anche in Finmeccanica sarà capace di portare avanti un lavoro della stessa qualità, quindi personalmente non ho dubbi che ci riuscirà. notizia di pochi minuti fa, mentre vedo che vi state scatenando sul tema del canone, chi ci dice il canone RAI in bolletta energia è un buon sistema, basta limitarlo ai contratti residenti già attuato in paesi civili, non è possibile che paghi solo il 60%, e anche questo è vero. Sottolinea la follia di un'eventuale autocertificazione per il mancato possesso della TV. Se si farà, farà sicuramente discutere. Le questioni di Roma. L'assessore al bilancio Daniela Morgante ha rassegnato le dimissioni pochi minuti fa. Aveva avuto a quanto pare ripetuti scontri col sindaco Marino sulla questione del bilancio. Le notizie delle scorse ore parlavano di un nuovo buco nei conti della capitale, da quel bilancio previsionale per il 2014 che però viene stilato tra aprile e maggio, di 60 milioni di euro. Notizia smentita dal sindaco Marino che dice, insomma, quello che avete sotto mano è un documento molto provvisorio, stiamo ancora lavorando. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, c'è la possibilità che questo buco ci sia? Non fermiamoci sul fatto appunto del bilancio previsionale fatto ad aprile, perché ormai sappiamo che è così nei comuni, una situazione irrecuperabile, anche per questioni fiscali, perché gli cambiano le tasse in volata e via. Però, insomma, ti chiederei se c'è la possibilità che ci sia questo buco da 60 milioni ulteriore. Il problema vero qui nasce dalla relazione della ragioneria dell'altro giorno, che ha individuato circa 600 milioni di euro di erogazioni illegittime di stipendi ai dipendenti e ai dirigenti del Comune di Roma negli anni dal 2008 al 2013. Se la ragioneria ha ragione, naturalmente, come dire, per prima cosa queste erogazioni andrebbero bloccate quanto prima, il che creerebbe un disastro politico sociale, diciamo, facile da immaginare. Detto questo, essendo questo lo scoglio, naturalmente il bilancio del Comune di Roma soffre da ogni punto di vista, e gli scontri che ci sono stati, che hanno costellato le ultime settimane tra il sindaco Marino e l'assessore Daniela Morgante ne sono la testimonianza fedele. Il punto è che verosimilmente si va verso un nuovo aumento lineare generalizzato del fisco locale, delle tasse e della Stasi in particolar modo, e in un comune che ha già il record nazionale di pressione fiscale sui cittadini, sugli abitanti. Tasi e tassa di soggiorno, si presume, anche se quella non riguarda direttamente i romani, naturalmente. Esatto, mentre la Tasi riguarda pienamente i romani, lì l'ipotesi contro cui la Morgante si è battuta fino all'ultimo era quella di alzare al 2,5 per mille per tutte le prime case la Tasi. Se questa, dopo le dimissioni della Morgante, dovesse essere l'ipotesi indispensabile per finanziare i livelli di spesa che sono attualmente previsti, naturalmente sarebbe l'ennesima stangata. Questo dal punto di vista della Tasi, e poi c'è anche un programma di taglio della spesa che è teoricamente molto energico, bisogna vedere se si riesce a realizzarlo, no? Sì, anche perché insomma la delega della Morgante è caduta esattamente su questo, si è scontrata un po' con tutti gli assessori e in particolar modo naturalmente con il sindaco su un ambizioso piano di tagli di spesa che non ha trovato l'intesa politica dentro alla giunta. Ma qui si torna sempre al punto di partenza: se ci sono livelli di spesa anche ereditati dalle gestioni passate, ovviamente, che sono irragionevoli, al punto che la ragioneria dice che ci sono 600 milioni di euro di troppo dati al personale, o si taglia quello o si aumentano le tasse un'altra volta. Certo, vedremo come andrà a finire tutta questa vicenda. Di certo questo non è l'ultimo capitolo, e bisogna dire che l'uscita di scena dell'assessore al bilancio, come dire, anche dal punto di vista politico, no, non mette la giunta Marino in ottime condizioni. Ringrazio Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo e parleremo con Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e neo consigliere di Finmeccanica. Marina Calderone, Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Presidente del Comitato Unitario degli Ordini Professionali e Neo Consigliere di Finmeccanica. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io partirei proprio dal nuovo incarico, dall'incarico di consigliere di Finmeccanica. Naturalmente le notizie delle nomine lo sapete, sono dell'altro ieri. Una donna che entra in un'azienda importante e, al di là dell'aspetto femminile o non femminile, perché poi questo conta e non conta, lo sappiamo. Vorrei sapere come si sente e come valuta la cosa. Ma io la valuto sicuramente come un affidamento fiduciario da parte del governo nei confronti dei professionisti in generale. Il fatto che nel Consiglio di amministrazione siano stati indicati sia il mio nominativo che quello del collega Guido Alpa, che presiede il Consiglio Nazionale Forense, a nostro avviso è un'apertura di credito o una volontà di dialogo con il mondo delle professioni. Mondo delle professioni che ha più volte detto che era disponibile a mettere a disposizione tutte quelle che erano le nostre energie per essere coinvolti in un progetto complessivo di riassetto e anche di riconversione di importanti asset del nostro paese a favore di un rilancio e di una rinascita che noi crediamo possibile. Quindi per me è assolutamente positivo nel momento in cui si fa una scelta, si punta su dei professionisti che non sono politicamente schierati. Un mondo delle professioni che secondo lei non solo questo governo, ma i governi in genere hanno teso un po' a dimenticare, cioè c'è un difetto, se vuole, di rappresentanza politica? Beh, certamente c'è sempre stata una maggiore attenzione per quelle componenti della società civile che poi sono classificate all'interno della definizione di parti sociali. Le confederazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, la società civile in generale è stata coinvolta maggiormente. Il mondo delle professioni, in quanto caratterizzato da una figura di assetto ordinistico, probabilmente non viene facile classificarlo all'interno di una definizione di parte sociale, anche perché questo ci starebbe stretta. Noi non siamo delle parti, noi abbiamo un ruolo e una funzione diversa, siamo sicuramente degli attori istituzionali che hanno necessità ovviamente di un riconoscimento di ruolo, ma quel ruolo dobbiamo essere anche noi stessi in grado di conquistarcelo sul campo, conquistarlo nel campo certamente delle competenze, ma anche della rappresentanza, come dice lei, di tipo politico. Le nostre tante divisioni, i nostri tanti distinguo interni non hanno sicuramente consentito che questo percorso potesse arrivare a compimento. Io credo invece in una grossa federazione, appunto, delle forze professionali che possa rappresentare un interlocutore stabile. Non è che a volte invece, come dire, quando il mondo delle professioni ha avuto rappresentanza politica, e mi riferisco in particolare al mondo degli avvocati perché tanto spesso se ne è parlato, ha rappresentato un ostacolo all'azione ammodernatrice, penso alle liberalizzazioni, tanto per fare un esempio? E forse, dico, anche questo pesa, no? Nella scarsa attenzione che si finisce per dare al mondo delle professioni. Io credo che ci siano stati tanti fattori che hanno in qualche modo condizionato anche quella che è la percezione esterna del ruolo delle professioni italiane, perché non si può certamente confinare un tema così grande solo ed esclusivamente nella valutazione di quelle che sono le attività di questa o quella professione. Noi siamo 27 ordini professionali, raccogliamo e abbiamo tra i nostri iscritti 2.300.000 soggetti. Questo è la nostra forza e sono i nostri numeri. Certamente il fatto che si voglia rapportarsi al tema delle professioni facendo leva su quelle che sono a volte anche le nostre debolezze interne e quindi cercando di dividerci, secondo me può anche far denotare un approccio ideologico a quella che poi invece è una componente di servizio per il paese. Noi nell'essere Stato nello Stato, nel senso che siamo istituzioni, abbiamo anche una funzione ben precisa, Che poi il tema delle liberalizzazioni sia un tema molto utilizzato e anche molto abusato, questo è altrettanto vero, perché parlare di liberalizzazioni di un comparto che ha un numero di iscritti così rilevante vuol dire anche usare dei luoghi comuni. L'Europa ci dice che in altri paesi il numero degli avvocati oppure degli iscritti per esempio alle professioni tecniche è di gran lunga inferiore rispetto a quelli al numero dei professionisti italiani. Noi abbiamo 250.000 avvocati, più di 200.000 ingegneri, 200.000 circa sono gli architetti, abbiamo una mole impressionante di professionisti, quindi non credo che si possa parlare di un mercato chiuso. Certamente questo non vuol dire che noi dobbiamo sottrarci a una volontà generalizzata di cambiamento. Io credo anzi che la riforma delle professioni che è stata varata 2 anni fa debba essere ulteriormente implementata, perché gli ordini devono comunque dimostrare anche la loro attenzione a quello che è un mercato del lavoro che è in continua evoluzione e in continuo cambiamento. E anche l'esigenza di cambiamento del paese, naturalmente. La voglio portare proprio sul tema del lavoro, perché poi appunto lei è presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, poi sentiremo anche la voce del ministro Poletti, che sta parlando spesso in questo periodo, insomma sentiremo che cosa ha detto oggi a proposito del Jobs Act, a proposito delle pensioni, e però insomma io vorrei prima di tutto un suo giudizio sul decreto lavoro, posto che naturalmente non rimarrà com'è evidentemente nel passaggio parlamentare. Questo ci sembra chiaro, l'ha detto Poletti, l'hanno detto i presidenti, l'ha detto il presidente della commissione lavoro del PD che è della Camera, Damiano. C'è una fronda interna al Partito Democratico che la vuole cambiare ed evidentemente il governo ne dovrà tenere conto. Che idea si è fatta? Ma sostanzialmente credo che vedremo un bel match nella fase di dibattito parlamentare, perché certamente queste divisioni all'interno del PD porteranno a fare degli aggiustamenti e credo che saranno anche aggiustamenti importanti. Io l'ho sempre considerato un primo atto e un inizio di un percorso che deve essere ovviamente molto più organico di riassetto di quello che è la normativa in materia di lavoro. Noi veniamo da un percorso storico molto particolare. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, credo che siano la forma contrattuale più utilizzata e soprattutto anche più modificata, perché si sono susseguiti negli anni tanti di quegli interventi normativi che poi in effetti, se andiamo a vedere, hanno radicalmente cambiato tutto quello che è l'assetto. Senta, oggi la voglio fermare un attimo su questo tema, perché questo secondo me è un elemento molto importante. Quanto pesa nel mercato del lavoro quest'incertezza normativa costante che caratterizza questo paese? La caratterizza dal punto di vista fiscale, ma anche dal punto di vista delle norme sul lavoro, cioè stiamo costantemente cambiando le norme sul lavoro, e quindi io immagino che un'azienda che deve assumere o che deve prendere una persona a tempo determinato in questo momento, e ne ha la possibilità, stia esattamente aspettando che il decreto Poletti venga approvato prima di prendersela, o no? Glielo confermo, ma non da presidente, da professionista che lavora sul campo, perché io ovviamente seguo le aziende quotidianamente e l'incertezza legislativa in materia di lavoro è secondo me l'elemento veramente di criticità, perché non puoi non avere certezze e doverti sempre arrampicare sugli specchi, scusate il termine poco tecnico, per poter dare quelle certezze che invece le aziende richiedono e di cui hanno necessità. Il ruolo del professionista è un ruolo molto ingrato in questo caso, perché laddove la norma non è certa e non è assestata, è evidente che la fase interpretativa si amplia moltissimo e soprattutto nasce un forte contenzioso. Ecco, devo dire che il decreto Poletti, il Jobs Act, almeno una cosa l'ha fatta, ha fatto una scelta di campo, quella di intervenire su quello che era la componente più importante del contenzioso sul contratto a termine, quello delle causali. Le causali erano l'elemento di criticità. Eliminandole, certamente si è fatta una scelta che poi può essere condivisibile o meno, ma che ha messo di fronte gli operatori del settore a una scelta, che è quella di dire: ok, mi rapporto a questo strumento pensando che gli si è voluta dare la flessibilità più ampia. Allora, se il contratto a termine va inteso come strumento di flessibilità, il fatto di aver tolto le causali certamente ha liberato molte delle energie. Ora, la cosa più importante è capire se tutto il dibattito parlamentare verterà sul numero delle proroghe che sono oggi ammesse fino a 8, oppure sulla durata complessiva massima del contratto. Io credo che fondamentalmente il numero di proroghe non sia un problema, nel senso che a me personalmente 8 possono sembrare tante, ma non credo neanche che nessuno possa avere, come dire, la sfera di cristallo per dire 3, 5, 7, 8, cioè mi sembra voler cercare di ricondurre in termini di rigidità quello che invece è stato un intervento di massima apertura. Allora la scelta è: sgombriamo il campo dagli equivoci. Vogliamo veramente dare impulso o apertura al contratto a termine? Allora non è un problema di proroghe, è un problema di mantenere quell'istituto così com'è in questo momento. Altrimenti rischieremmo di continuare invece a cercare di ricondurre alla rigidità ciò che invece nasce per essere flessibile. Ma guardi che questo è un comportamento che noi vediamo spesso in un legislatore che non ha le idee chiare, e non mi riferisco ovviamente a qualcuno in particolare, ma in linea generale. Se guardiamo la produzione normativa in materia di lavoro, per esempio la legge Fornero, questo ha fatto per le partite IVA, perché la normazione e gli interventi sulle partite IVA altro non sono che un tentativo di imbrigliare all'interno di canoni riconducibili al lavoro subordinato, perché poi altro non è quell'intervento, quello che invece nasce per avere un'altra formulazione. Lo si è caricato di un substrato ideologico, e nello stesso tempo si è fatta una grande porcheria tecnica. E questo senza considerare naturalmente, appunto, per esempio le singole esigenze aziendali o territoriali. L'ultima domanda che le voglio fare riguarda invece il tema delle politiche attive. Insomma, a me sembra francamente che se ne parli proprio poco. Se ne parla praticamente quasi nulla. E credo che invece quello sia il nodo vero e proprio, perché politiche attive vuol dire ridisegnare tutto il sistema di inserimento nel mondo del lavoro e di riaccompagnamento al lavoro. E sempre da professionista che opera sul campo, soprattutto sul tema del riaccompagnamento invece c'è da fare parecchio, c'è da fare parecchie riflessioni, perché oggi come oggi noi abbiamo una moltitudine di soggetti che poi sono quelli che percepiscono le casse integrazioni in deroga, le mobilità, che sono parcheggiati in attesa di qualcosa che non si sa che cosa sarà. E il nostro sistema di servizi per l'impiego tutto è tranne che quello che è contenuto all'interno del nome di queste strutture. Io credo invece che noi dovremmo ridisegnare non un percorso in cui si debba attribuire un reddito di cittadinanza, un reddito minimo garantito a tutti, però dobbiamo certamente invece garantire un percorso a tutti, un percorso di reinserimento all'interno del mondo del lavoro, dove quei sussidi che vengono erogati durante i periodi invece di disoccupazione siano poi finalizzati realmente a un inserimento lavorativo, perché quella è la nostra scommessa. Buone notizie. buone notizie, a quanto pare vi siete scatenati sul canone, su quest'idea di collegare il pagamento del canone Rai alla bolletta elettrica sostanzialmente. Ci avete ricordato tra le altre cose, se abbiamo parlato solamente di televisore l'abbiamo fatto genericamente, naturalmente sbagliando, con un'imprecisione, perché è vero che il canone TV va pagato per chi ha, per le famiglie che hanno uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. Ci scrive un ascoltatore, quindi anche il tostapane no, però sicuramente uno smartphone sì. Ma la buona notizia è che fonti di Palazzo Chigi, sono fonti però insomma arrivano da più agenzie, quindi insomma probabilmente l'ha fatto sapere direttamente Palazzo Chigi senza fare un comunicato, smentiscono ipotesi di stampa su un intervento del governo su canone Rai, eventualità non prevista e destituita di fondamento. Bene così, buona notizia, come arrivano buone notizie dalla borsa. Chiara Di Cristoforo, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buongiorno, buonasera anzi. Buonasera Simone. Allora, giornata veramente ottima, il FTSE MIB chiude con un rialzo del 3,44%, il FTSE All Share del 3,22%, praticamente il doppio rispetto alle altre piazze finanziarie europee. Che cosa è successo? Ma oggi c'è stato un rimbalzo generalizzato, ci sono state una serie di elementi positivi nel corso della giornata anche a livello internazionale, a partire dal PIL cinese migliore delle attese, dati positivi dagli Stati Uniti con una produzione industriale cresciuta in marzo più del previsto, ma soprattutto ha sorpreso il dato di febbraio che è stato rivisto al rialzo, praticamente raddoppiato dalla prima lettura. Milano aveva perso un po' di più nei giorni scorsi e quindi oggi ha recuperato soprattutto grazie agli acquisti sui titoli bancari, che poi lo vedremo nel dettaglio, ma hanno proprio concentrato l'attenzione agli acquisti oggi. Le altre borse europee: Francoforte più 1,57%, Parigi più 1,39%, Londra più 0,65%, bene anche l'America, più 0,67% sul Dow Jones, più 0,66% sul Nasdaq e più 0,63% sullo Standard & Poor's 500. Le banche, si diceva, e su tutte le popolari: Emilia Romagna più 8,6%, Banco Popolare più 7,8%, UbiBanca più 7,5%, Popolare di Milano più 6,5%, poi sono anche gli altri bancari, Unicredit più 5,8%, Mediobanca più 5,3%. Ti chiederei intanto di concentrarti sulle popolari, Chiara, se c'è qualche motivo in particolare per cui proprio queste sono andate... Allora, innanzitutto un motivo generale che le riguarda tutte è che sono i titoli che si muovono di più quando si muovono i bancari, cioè se il mercato va giù sono quelle più penalizzate, se va su sono quelle che recuperano maggiormente, vengono tutte da sedute di forti cali. Per tutta la seduta in cima al listino c'è stata UbiBanca, poi sul finale, come hai detto tu, è stata superata dalla Popolare Emilia Romagna e dal Banco Popolare. La Popolare Emilia Romagna ieri aveva perso oltre il 4% dopo la notizia del cambio ai vertici, c'è stato andato via l'amministratore delegato Luigi Odorici, sostituito dal vice direttore generale Alessandro Vandelli. Una prima reazione era stata negativa, ma oggi, come abbiamo visto, il mercato ha più che festeggiato. Per quanto riguarda UbiBanca, il titolo ha strappato sin dalle primissime battute. Stamattina ha annunciato una riorganizzazione delle attività assicurative con la firma di una serie di accordi che ridefiniscono la partnership con Aviva, in particolare nella distribuzione nel ramo vita. Si tratta di un riassetto che in qualche modo rende il settore assicurativo della banca più efficiente, e questo ha motivato gli acquisti e i rialzi. Per la Banca Popolare di Milano dobbiamo ricordarci che viene da due sedute veramente forti. Pessime. Esatto. Tanto che la Consob aveva vietato le vendite allo scoperto, no? Esatto, perché lunedì era arrivata a perdere il 9%, ieri comunque aveva perso un altro 3%, quindi tutto sommato questo più 6-5% di oggi recupera non tutto quello che era stato perso. Rispetto alla questione della governance, ricordiamo che sabato c'era stata questa mancata mancata decisione sul riassetto della governance che era molto attesa nell'Assemblea, oggi c'è stato il vertice in Banca d'Italia, quindi bisognerà vedere cosa emerge da lì, se Banca d'Italia sarà disposta ad accettare questa situazione. Un'ultimissima cosa sulle banche riguarda il Monte dei Paschi. Sì. Perché è stata in rosso in mattinata, ieri lo ricordiamo ha perso un 10%, chiude invece positiva anch'essa, ma con rialzi decisamente più limitati, siamo intorno all'1%. Qui la questione era questo maxi aumento di capitale superiore a quanto si pensava, quindi 5 miliardi più del previsto, si parla di una possibile convocazione del Consiglio di Amministrazione entro questa settimana, però la banca non ha confermato. No, non ha ancora confermato. A Giovanni che ci scrive: cosa c'entra il PIL cinese con la popolare Emilia Romagna, la popolare di Milano? No, certo, non c'entra niente, c'entra col tono generale dei mercati in questa giornata. Giornata tra l'altro si era aperta molto bene anche a Tokyo, che ha guadagnato un 3%. In tutto questo ha giocato anche il fatto che dopo la caduta di ieri le controllate dallo Stato, in specie mi riferisco a Finmeccanica, che è quella che ieri ha fatto la performance peggiore, oggi hanno recuperato qualcosa, hanno rimbalzato sostanzialmente. Sì, no? Sì, il rimbalzo ha riguardato anche loro. Finmeccanica ha recuperato un 2-3%, Terna quasi 2 punti, Eni l'1,63%. Il rialzo più forte è stato comunque quello di Enel, più 4,3%. Qui sono arrivati due report positivi, uno di JP Morgan, uno di Morgan Stanley, che di fatto hanno rivisto al rialzo, JP Morgan ha rivisto al rialzo il target price, Morgan Stanley ha confermato i suoi obiettivi a 4,02 euro, ma sono due report che giudicano il titolo interessante, e questo sicuramente ha fatto sì che salisse più delle altre. Ci chiedono insistentemente gli ascoltatori via SMS di Anima, perché oggi era il giorno del debutto. Allora, non è andata benissimo come prima giornata, diciamo che in apertura il titolo ha fatto segnare un 3%, in chiusura siamo a meno 3,57%, quindi un primo giorno un po' faticoso per il titolo del risparmio. Motivi in particolare? Ma no, in questi casi si tratta semplicemente di riaggiustamenti di portafogli. Sicuramente il titolo era stato molto ben valutato, forse un po' troppo, ma insomma dovremo vedere un po' il medio-lungo termine cosa comporta. A volte anche si acquistano questi titoli in sede di IPO e poi non si intende tenerli in portafoglio. Per avere una valutazione proprio sull'andamento reale del titolo bisogna darsi un po' di tempo. Su altri due titoli ti voglio portare, per chiudere in breve, Saipem e Mittel. Allora, Saipem rapidissimamente ai massimi da un anno, dopo aver avuto due maxi contratti, anzi in Angola, da 4 miliardi di dollari, quindi aggiornato i massimi, mentre Mittel è balzata come titolo migliore di listino con un rialzo del 12% su la possibile offerta in arrivo da parte di Invest Industrial. Ne ha parlato il Sole 24 Ore questa mattina, è un'offerta che riguarderebbe la quota di in mano alla tassara di Zaleski, quindi un 15,3%, ci sarebbero colloqui in corso che porterebbero così a rilevare il controllo di questa storica azienda finanziaria bresciana. Staremo a vedere, sicuramente l'interesse della borsa è tanto. Ed eccoci di nuovo, buonasera da Simone Spezia e benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Vedo che continuate a scrivere al 349-238-6666 a proposito della questione del canone Rai, perché è circolata questa ipotesi, la ripeto, secondo la quale l'idea era di collegare il pagamento del canone Rai alla bolletta elettrica, cioè se hai la bolletta elettrica paghi il canone Rai, è un'idea che suscita qualche perplessità. Qualche ascoltatore ci dice: non vedo qual è il problema. Un altro ascoltatore dice: beh, se nel caso dovesse essere prevista un'autocertificazione, no? Che dice guardate, io non ho il televisore o non ho un apparecchio atto a ricevere trasmissioni televisive, insomma, potrebbero farlo tutti gli stessi che evadono il canone Rai sostanzialmente, quindi non è che cambia di molto la cosa. Però il governo per il momento ha smentito, anche perché è una cosa talmente controversa che figuratevi se viene approvata una cosa di questo genere prima delle elezioni europee. Scusate se ci si mette un po' di cattiveria. Allora, mi chiede invece su Twitter Ulisse Cucchi, mi dice: fateci sapere qualcosa sui tempi di questo Jobs Act, che mi pare si stiano allungando a dismisura per finire nel niente. Così oggi nel forum con Repubblica TV il ministro Poletti. Se il Parlamento ci mette 6 mesi, noi entro 6 mesi siamo in grado di chiudere tutta questa partita. Faremo tutto il possibile perché il Parlamento lo faccia, però questo credo sia una responsabilità che il Parlamento può assolvere, anche perché la legge delega è già oggi depositata in Parlamento, è già assegnata, quindi non è una cosa che verrà oggi. Il Senato ha già il nostro testo con tutti i timbri che deve avere e può avviare tranquillamente il proprio lavoro di istruttoria, quindi io credo che ci siano tutti i termini perché il Parlamento concluda rapidamente i suoi lavori e noi a ruota faremo tutto quello che va fatto. Io credo che se il Parlamento entro la fine di quest'anno chiuderà la parte che gli compete, noi entro i primi 6 mesi dell'anno che viene saremo in grado di chiudere tutto il resto. A fianco dell'ottima giornata di borsa che abbiamo registrato e che vi abbiamo raccontato poco fa, con il FTSE MIB che chiude con un guadagno del 3,44% e un FTSE All Share del 3,22%, da segnalare anche la chiusura di giornata per quanto riguarda lo spread tra BTP e Bund, tra i titoli italiani e tedeschi a 10 anni, ossia la differenza di rendimento, scende a 161 punti base, ma il segnale buono è il tasso sul decennale del tesoro, è in discesa al nuovo minimo storico al 3,096%. Veniamo adesso, e tra un attimo a proposito dei mercati parleremo anche di Telecom Italia, perché chiude con un guadagno dell'1,5%, ma il tema è l'assemblea di oggi. Veniamo però alla crisi in Ucraina. Sempre dal nostro punto di vista, da un punto di vista economico, e cercheremo anche di collegare quello che è in fondo il tema che ci preoccupa di più dal punto di vista economico, ossia il transito del gas, a quello che sta per avvenire tra poco in un altro grande fornitore italiano, che è l'Algeria, che va al voto tra qualche tensione, per così dire. Saluto Davide Tavarelli, presidente di Nomisma Energia. Buonasera. Buonasera, grazie. Allora, io partirei proprio dalla questione dell'Ucraina, che è quella forse più pressante naturalmente, perché per l'Algeria ci si aspetta sostanzialmente una continuità di governo, anche se il regime ha qualche segnale di cedimento inizia a darlo, e però partirei da qua. Mosca, lo ricordiamo perché è di Mosca che parliamo e delle tensioni con la Russia che la vicenda ucraina può generare, è il secondo produttore mondiale di gas. Gran Bretagna e Francia sono un po' meno esposti, Italia e Germania sono più vulnerabili. Le chiederei innanzitutto di aiutarci a fare qualche numero da questo punto di vista. Ma grande dipendenza, circa il 25% dei consumi di gas dell'Europa dipendono dalla Russia. L'Italia l'anno scorso per congiuntura ha importato anche di più, quasi il 30%, perché sono aumentate le importazioni per questioni contrattuali e è calata la domanda, perciò siamo più vicini al 30%. Non possiamo fare a meno del gas russo, ma c'è sempre molta attenzione sul petrolio, perché la Russia è il primo produttore mondiale di petrolio, è il primo esportatore, vicino, secondo, assieme all'Arabia Saudita. Perciò è da ricordare che un eventuale embargo o qualcosa del genere, interruzione, che dovesse coinvolgere l'Italia, dovrebbe anche estendersi al petrolio. Quel punto lì sarebbe uno shock petrolifero tipo anni 70, perciò difficilmente praticabile sotto il profilo politico anche da parte degli americani. Questo dal punto di vista anche del petrolio. La fase 3 delle sanzioni nei confronti della Russia per il momento da parte dell'Unione Europea resta ancora nei cassetti, e probabilmente naturalmente ci sono anche questi motivi dietro a tutto questo, perché non è così facile, no? Mettersi. No, è praticamente impossibile. Infatti, guardi, paradossalmente, mentre c'è in corso questa gravissima crisi politica con questa minaccia catastrofica di interruzione delle forniture, i prezzi del gas in Europa raggiungono i mercati spot i loro minimi, sono scesi da circa 29 centesimi o euro megawattora a qualcosa intorno ai 23-24 in questi giorni, perciò i mercati non prendono nemmeno in considerazione l'ipotesi di rallentamento o interruzione. Vabbè che siamo all'inizio dell'estate praticamente per il gas, le scorte sono molto abbondanti e ne riparleremo a ottobre, ecco, di circa questo ottimismo dei mercati, però insomma, la situazione è abbastanza tranquilla. Chi ci chiede al 349-238-6666 com'è andato il collocamento, in questo caso non è un'asta, del BTP Italia, come preannunciato è andato molto bene pure questo, ha raccolto alla chiusura del collocamento oltre 10 miliardi e la chiusura del collocamento è stata anticipata alle 14. Rimaniamo però sulle vicende energetiche, sempre con Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. C'è una questione che mi interessa. Nei giorni scorsi, e poi andremo anche all'Algeria, però nei giorni scorsi abbiamo sentito la voce dell'ormai ex amministratore delegato di Eni, Scaroni, che diceva la nostra strategia si basa sul meno uno. Quindi possiamo fare a meno sostanzialmente di un fornitore di gas, e però l'impatto in realtà sulle bollette, molto banalmente, sui prezzi del gas può essere molto forte. Ma sì, perché l'autorità e tutta la regolazione europea sta muovendo verso i prezzi spot. I prezzi spot sono una cosa bella quando c'è abbondanza di offerta, ovviamente, perché tendono a scendere, come dicevo prima, in questi giorni sono scesi addirittura 23 euro per megawattora contro i prezzi delle importazioni. Ad esempio i russi stanno applicando qualcosa agli ucraini che è superiore ai 30 euro megawattora, e anche l'Eni perde quasi, cioè ha dei take or pay che viaggiano su questi livelli. I prezzi spot adesso sono bassi, ma ci possono essere i momenti poi di corto quando i prezzi esplodono e potrebbero essere 30-40. Speriamo che ciò non accada il prossimo ottobre, se dovesse protrarsi, ecco, una crisi del genere. Ripeto, la Russia non è sostituibile neanche dall'Algeria nel lungo termine, pertanto vedremo nei prossimi mesi. Ecco, il tema dell'Algeria, sul tema dell'Algeria ci sta portando lei. Allora, va al voto l'Algeria, un voto per modo di dire, perché Abdelaziz Bouteflika è sostanzialmente sicuro di vincere. Quarta volta, ha 77 anni e forse l'età di quest'uomo per certi aspetti ci potrebbe preoccupare, come eventuali tensioni politiche che si possono sviluppare nel paese, perché anche dall'Algeria noi di gas ci riforniamo parecchio. Sì, l'anno scorso tradizionalmente il primo fornitore l'Algeria, anche se seguito a breve distanza dalla Russia, l'anno scorso è stata prima la Russia, però storicamente dagli anni 70 l'Algeria ci ha dato 550 miliardi di metri cubi, sempre con relativa regolarità, sempre intorno ai 20-25, infatti guardiamo l'Algeria come possibile eventuale, in una situazione catastrofica, sostituto della Russia, perché la capacità fra l'altro da lì è stata espansa anche per ragioni di antitrust, di mercato, perciò potremmo importare teoricamente 35 miliardi di metri cubi, ma lì non c'è la capacità. Fra l'altro quest'anno, cioè 2013, è calata a quasi a 13 miliardi di metri cubi, cioè un calo l'anno scorso del 40% per ragioni sia contrattuali, per evitare pochi danni perché il mercato in Italia è troppo lungo, sia perché loro dovevano esportare del liquefatto. Sta di fatto che l'Algeria comunque non vive come tutto il Nord Africa, come l'anarchia che si è creata in Libia un bel periodo. Ricordo che il 17 gennaio 2013 ci fu un attacco violentissimo con 30 morti a uno dei giacimenti più importanti, quello di Amenas, per fortuna poi dopo è rientrato tutto. Tra l'altro, se non ricordo male, all'inizio dell'anno ci fu anche un problema sulla qualità del metano e del gas algerino. Al di là di questo, ci può creare preoccupazione la situazione politica in Algeria, secondo lei, che si somma a questo punto alla situazione politica in Ucraina e ai problemi con la Russia? Sì, perché mentre il resto del Nord Africa ha avuto uno sfogo, anche se drammatico, come la Libia o comunque poco risolutivo come l'Egitto, l'Algeria è sclerotizzata sulle suoi soliti problemi di una guerra civile degli anni 90 che è stata devastante per la loro stabilità sociale interna, ed è lì speriamo che non esploda, ecco, perché noi ci dobbiamo preoccupare per il gas, certo importante, ma l'Algeria è sempre, e riconduco l'attenzione sul petrolio, perché il petrolio è la madre di tutti i prezzi di energia, se va su quello poi il rallentamento globali, recessione, si torna a parlare di queste cose che sono brutte, invece noi speriamo che i prezzi scendano, ma questo non accade. Ecco, se accadesse una cosa del genere in Algeria sarebbero meno esportazioni di petrolio e altro sostegno ai prezzi che sono già troppo alti, intorno ai $100 per barile. Quindi altro fronte di preoccupazione, e quindi un voto a cui prestare particolarmente attenzione, perché tra l'altro ci sono elementi dell'opposizione che hanno detto se rivince Bouteflika siamo pronti, per così dire, a creare problemi. Massima attenzione anche qua, grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, come sempre per la sua chiarezza, e buonasera. Grazie a voi, buonasera. Veniamo adesso all'assemblea di Telecom Italia. Oggi in borsa più 1,42%, ma appunto non è questo il tema. Si registra un'affluenza molto alta, sostanzialmente certa la conferma di Marco Patuano nel ruolo di amministratore delegato e la nomina di Giuseppe Recchi alla presidenza. Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, ti trovi là tra l'altro, no? Dov'è? A Rozzano, sì. Buongiorno, sì, buonasera, ciao. È così, no? Sì, guarda, è molto indietro, sta andando avanti da 7 ore e mezza, ma siamo ancora alle risposte agli interventi iniziali. In ogni caso, appunto, è confermata questa affluenza record storico per l'assemblea di Telecom, 56% del capitale, e diciamo non sono previste cose strane rispetto a quello che ci si poteva aspettare alla vigilia. Diciamo che l'unica incognita era se Fini riusciva a piazzare almeno un candidato in consiglio, ma secondo le previsioni assembleari probabilmente non ce la fa, non ha i numeri, perché il 56% del capitale è una quota molto alta e i fondi votano in massa per la lista di assogestione. Vogliamo, Antonella, ricordare un po', perché abbiamo perso un po' le tracce, no, negli ultimi mesi, com'è composto l'azionariato di Telecom Italia? Dunque, c'è il 22,4 che fa capo a Telco, però Telco è una compagine che ha Telefonica, Mediobanca, Generali, Intesa, che è in via di sfaldamento con moltissima probabilità, altissima probabilità. A giugno avvieranno la procedura per sciogliersi, e gli italiani hanno già detto che in prospettiva è neanche una prospettiva lunga, hanno intenzione di uscire, di chiudere questo investimento, quindi rimarrebbe poi Telefonica da sola con circa 15% del capitale. E poi per il resto c'è Findim che ha il 5%, ci sono i piccoli azionisti della Rati che oggi hanno portato in delega lo 0,7%, ma insomma diciamo più o meno hanno un consenso assembleare intorno all'1% e poi ci sono tanti fondi e il più grosso è il gruppo BlackRock che ha il 4,8, un po' meno del 5. Azienda che tra l'altro si sta muovendo sulle linee dell'uomo che dovrebbe essere confermato oggi nel ruolo di amministratore delegato, diciamo un dovrebbe, una certezza. No, è un dovrebbe, no, lo so, è un dovrebbe che è un dovrà, diciamo, poi finché no, finché che... certo, ma è più forma che sostanza. È più forma che sostanza, diciamo la corretta forma giornalistica, diciamo così. Senti una cosa, Antonella, sta procedendo lungo le linee di questo piano che prevede tra l'altro una serie di dismissioni, tra cui la cessione delle torri mobili brasiliane. Sì, sì, anche quelle italiane, a dire la verità. Ma ecco, lì c'era una parte del piano industriale che era una parte finanziaria e prevedeva di ricavare 4 miliardi di risorse con operazioni di dismissione anche di raccolta, perché una parte è già stata realizzata, cioè la metà, 2 miliardi vengono dalla vendita dell'Argentina, che si aspettano le autorizzazioni e delle autorità locali entro agosto, però sono 700 milioni di euro il prezzo concordato, il convertendo che è già andato 1,3 miliardi, e i 2 miliardi residui vengono dalla vendita delle torri in Italia e in Brasile e dalla vendita dei MUX di Telecom Italia Media. Allora, ti saluto intanto, Antonella, e spero per te che non duri tanto a lungo, insomma, mi ricordo anche quando... Ma diciamo butto un po' male. Vabbè. Butto un po' male, perché mi ricordo quando facevo un po' di cronaca finanziaria, queste assemblee interminabili, e pare che quella di Telecom di oggi sia una di queste. Grazie Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, arrivederci. Prima di chiudere, vi ricordo, visto che più o meno insomma, l'orario normalmente sarebbe questo, vi ricordo la giornata di borsa come è andata oggi, che è stata veramente ottima. FTSE MIB in guadagno del 3,44%, FTSE Share del 3,22%, una giornata trainata soprattutto dalle banche, soprattutto dalle popolari, con Emilia Romagna più 8,6%, Banco Popolare più 7,8%, UBI più 7,5%, Popolare Milano più 6,5%, e anche Unicredit più 5,8%, Mediobanca più 5,32%, nessun titolo negativo sul FTSE MIB. Considerate che i titoli peggiori sono nei dintorni del lusso: Yux più 0,45%, Moncler più 0,71%. I ringraziamenti: Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Paolo Corleoni in regia, tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, la passione si sente.